da fora, vedi, sono gli uomini a fidare l'unico che ha fatto, mi pare che tenne anche la cosa, vabbè, anche le tomate non voglio inciampare, dimmi io qua. Come si sentiva? Benissimo, io qua, quelli c'è anche io, ne ho tantissime cassette di liscio, ne ho una scatola in garage. Tutti i cani, ma suonati da questo fidel musicista andando tutta una serie di cose, ho pensato che abbiamo fatto la tour con Peppino Principe a Benevento, mio figlio nel 2003, su cara il Pisa Club, no? E questo non è lui che io non l'ho mai avuto modo di conoscerlo, lo so, se mi era uno dei, dei bravi fisarmonicisti che suonava i testi del Ligio su, su questi dischi a 33. Ha ha ha! andato in ferie a Tahiti, mi piacco se in presa i valemi civitteri. Oppure dei chiesi, che non guardo il capillareso però qui, di cari chiesi, non guardo solo la fisarmonica, ha provato la macchina in ittiri, dove la fisarmonica elettronica su cofano, e che devo fare San Maria Pia per la valle di Lina. Ragazzo, Giovanni, a Dottore Vin ha patattato, e quello che è una fisarmonica di un tipo, però non mi fa capificare la cucca, è una milanesa. Tira da lì, potrebbe dottore a buffare, e non mi chiacchi quello che armonichi, ma che non mi fa tenere volare, buscavo uno, buscati ma la rovaria non va bene, poi a fin dei conti la gara con amico cominciava a suonare, e dopo fare la cruzata la voglio attaccare, si impianto un giovane che mi viene questo locale, fino a San Patrò de Lanzano, se non mi cade, poi si cade per andare con Caspino de Umbia, circa, che come lo soffitto ci sono, un grande affido, e mi invito a notte in questo pensavo e si è errata, dovente. Ando, e quella la poi ci vedi domani, non ti porto la sua lì, questa milanese, ti porto ovvi, e figliai, farò un desì, e mi ha dato l'indirizzo, i due figli, ho cercato lo squinto. E già lì, ma la domanda era che era affido, e ha parlato, dai, da sero. Però quello mi ha pesato un dito tuato, mi ha sistemato il mio tuganto preparato per partire e andò sotto e liscia a 7:30 non mi vi chiuso e dopo ho detto in spiaggia, beh la polimocchiata del in spiaggia che la polia da Olbia, insomma la notte in Olbia la potente in cui c'è la derrata ballente. Oh, man. mi sa vero. Ma tu dire che è Napa per lui, sì, lui. Non lo faccio una cosa, ne ho dimenticato, però perché mi avevo pensato, poi, no, se una volta in genere sono andato, sono ancora passato, ma quella volta che ho appena appena pensato, mi buttino, poi mi chiamo nel corpo, perché non siamo su, a quando in Parenna Montana. Ok, insomma, che questo coro, quello dei ti riesce? No, no, no, no, allora. Era accettabile. stabile la posta Ducato, non la posta regolare sempre. Solo che anche perché la sua copertura è quasi lì, un periodo, non ha fatto nulla in Irwitt, è pericolosa perché è pesa e non mi credo avventurare. Ok, Pino l'ha accollato, guarda. Anche se mi piace, 23 sa accollare. Allora andrà bene. Prova a bidere? Sì. Ma se devi chiudere giù Bajor. Va bene, no, vedevo. Fossi e su centrobanda e se vi non può che pago un palanzo. Ma comunque potete non sapere quanti si segnale più o meno, là. Andiamo già su 23, sa bidere, andiamo già su 23 Capri. Ok. E ti ascolto anche 8 quasi, evidentemente ho più resa con l'antenna, capito? Ho più resa qua, ma dovrei metterla al correttore, ma non le ho voi, la lascio così come avrà, per appena di rosso, ma qualche cazzata ci sarà, vediamo un po' quant'è, se dico subito, aspetta. Allora, riesce a vivere, e quasi niente, là. Qua è 1-1, e beh, io ho sabbia da cantè, fermatevi qua voi. Pronto? Sì, ok. E va bene. Prova a vedere Capri modula. Ola, ola, 1-2-3, prova radio, 1-2-3, vai. Qua sei passato di 7 verso 8, là sei appena vicino di 7, là. Andiamo di nuovo sul 2, vediamo. Scendi ancora. sono 0 e ti rendi conto, metti 0 adesso. Ok, 26, ma perché non 85.300. Modular, che prova a vedere. Prova, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3. Adesso vai verso lo 0, scendi di 100 Hz. Prova che va. Scendi di 100 Hz. Sento. No, scendi. Fai 26.975.2. Mi senti? Sì, va. Modula? 26, ma perché non 85.2. Comunque il punto zero non si nota in AM, è impossibile notarlo in AM, capito? Non c'è questione qua, non è, qua non lo puoi ricollegare in frequenzimetro, ma so che qui è ancora più centrato, per i miei gusti, eh. Io so che qui è ancora più centrato, abbassa per avere la potenza. Sì, aspetta, ora, ora, guarda adesso che va, ora, ora. Modula? Passato che vai, passato. Ok, adesso va molto meglio, più. Infatti, guarda, tieni presente che allora, io questo l'ho visto sul analizzatore di spettro, poi l'ho visto col frequenzimetro del punto dello spaccato, non è questione di frequenza, è questione che tu sei saturo qua. Sei saturo, capri. Come vai a tirare su e esci male? Io levo l'acqua, che il cuore si muove. Ok, aspetta appena, guarda adesso il microfono, giù qua, si è passato qualcosa. Aspetta, oh, oh, adesso va bene. Allora, non toccare l'accordatore lascialo come. Riaccorda giusto e il microfono sollevalo poco a poco, se no fai casino. Guarda adesso, ora, ora, ora. Troppo, abbassa piano piano, leggermente. Ora, ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Ecco, non lo che dai gui, adesso vai benissimo. Ok, ma perché, però facevamo un appello, ho preso Mario, prendilo. Ok, perfetto, boh, io chiudo che è tardi, mi ho buttato il illuminato, non me ne è dato più di cucciola. Se domani mi devo fare stretto, potete mandare una sera mattina a me lasciare, perché c'è su computer fino alla mezzanotte, un mago, per una cosa, e poi non andiamo a mandare a me lasciare. Per il momento comunque vi saluto, a primo cetto, mi ha fatto piacere sentirvi. Un buon tutto per domani, ci sentiamo domani, hai capito? Mentre voi, tra mattina non pensare che è fea, mi dà mattina mi dava. Ok, riprendi il primo ascolto fino a lì e poi chiudo. Oh, Capri, Capri. Mi arrivo su paracchino, mio. Così io mi chiamo dai cosi, Capri, si arrivo. Ok, ciao Giovanni, domani chiudo perché tu di tu anche la 50, hai capito, è salita già al letto, hai capito, poi sono proprio qui la radio, non mi ha provato la camera, siamo intenzionati a fare uno stanzino, capito, adesso vediamo, là se ci riusciamo a farlo, di nuovo voglio qua, buonanotte e saluto anche il tuo QRA, lì. Ciao, Pinuccio di nuovo, buongiorno, la riprendi. Io fino a prima di andare via volevo un controllo di emissione, come stava andando dalle tue parti, poi risaliamo su io e Pino. Ciao, buonanotte, buon tutto, grazie ancora Capri. Ok, si andano 9 compiti positivi e la radio è 5, perfetto, hai capito, al 100% ti ascolto. Ok, non potrò alzare il volume molto dell'audio, però è radio 5, sto usando la colonnina esterna, l'SP430 del Kenwood, e così, più di così si muove. Una telefonata. Signori, di nuovo Capri 2 passa in QRTSK, prima andate ancora e poi viaggiate sull'altro canale. Sì, ciao Capri, ci sentiamo. Vino verso 23. Auguro su un caso a me. Ho capito. Che è? Come ti fai la sai una camusone, dai, gasso, a chiattare le ali di Napoli. Una ossa, di disegnare un tiumeo, no? Lei ha la ciappa da nunnu e le vaghe nacchi. Ha lì fino a che occupa sua nacchi che devono affidato. E le riponde nunnu nacchi. La it nacchi a camusone che gli sai non nacchi di che devo giugare. Io su un murale a camusone, no, guarda. stessi cose, ragazzi. Perché se fate vedere la camusone degli amico tua, un culinare del pistone. E a camusone, obbligato, no, uso paraocchi, che lo ci venderei, tornare di mille, a me, a lei. Sì, allora, e dobbiamo mancare un brutto, ragazzi. Che schifo. Sì. Salve, mi ha subito il proprio gusto. E tutto su riccio, naturalmente, non è che... ma problema, però. Ovviamente. Più ce n'è, più pulito è, meglio è. Profumato, bello. E gaire. Sì, cazzo, tanto... tanto è tesinata da... deve bene su quella che sono usando, ma cazzo puoi entrare sul locale. A porione dei, lascia, sa. No, se ne manco un baracchino, sennò come se ne due, lui si batti da sala di frequenza. E vabbè, non fa problema. Se fosse un altro, lui si è messo a francesina, usa sopra quei canna che bisogna, io, usa sono in bella femmina, sa, belle donne, caldissime, porche, gaine, con peso. E come dai, non ti lascia l'altro che ti lo dai sul fango, con quel dai, canna come te lo buco, guarda. A lì che te li consigli dove no. Attenta se riesce a me, attenta se riesce, a me va che ne schifo sinceramente, mi va che non buttare, compresso. A Caraizzo mi lascia sapere le apparenze, raga. Si sono avvicinato alla gai proprio l'amo. Oh, il buon mio, bella. Arrasse bocca, cari. Cosa sua mi sembra, non ho preso, mi sembra che sono lì questa cosa, se no è una ragazza, ma attacco bene. sali qua a Bescio, non a Pozza, tutti qua. E noi teniamo, ciao, buonanotte. Ehi, siamo bravos. C'hai ragione. Va bene, ma è stata una buona idea, mi danno un caffè, ciao, ciao, buonanotte. Vediamo, ok. Aspettiamo, ciao, ciao, ciao. Buonanotte, ciao, ciao. Mi raccomando, testi di cuoio, qui in caso di emergenza rompere il retro, ciao. Buonanotte, ciao.